Buongiorno. Buongiorno. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Cammino, Nino, Gigi D'Agostino. No, Nino, Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Cammino, Gigi D'Agostino. Nino, Gigi D'Agostino. No, Nino, Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Cammino, Gigi D'Agostino. Ma che è? La frequenza è codesta. La frequenza è codesta. La frequenza è codesta. M2O. E la musica pesta. Pesta. Pesta. Pesta. Se volete mandare le vostre dediche, le vostre dediche, le vostre dediche, le vostre dediche. Il numero di SMS è 333-64-67-662. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Sono Michele. Sono Michele. Sono Michele da Palermo. Gigi. Eh? A pomettiri pigia pigia perché soffro di ingordigia. Vabbè, certo. Si umeggiu. Gigi D'Agostino. Sono Daniele di La Chiarella. Sono al lavoro. È giusto. Vorrei ascoltare un lento violento. Yeah. Lento violento. Yeah. Lento violento. Yeah. Lento violento. Yeah. Lento violento. Yeah. vento violento ti porta in un mondo lontano. Tipo? Lontano, lontano, lontano, lontano, lontano, lontano, lontano. Ma dove cazzo va? Lontano, lontano, lontano, lontano, lontano, lontano. A cosa? Forse diverso, ma un po' più. Muovete. Più sano, lontano, più sano, lontano, più sano, lontano, più sano, lontano. Even though the other party wanna freak you, I heard. Yeah, you wanna be my shorty. Come with me and let's go party. Though my age is 2 times 8, but believe me, I could pop the lid. When the world goes round and round, if it's just the sound, get with me, come on, let's ride. She already know what's my name, then it's the cool guy. Bling bling chain on my neck. She feel me cause you know that I host right text. Damn, I wanna show her love when other nigga diss her. I don't wanna break her, lump in my mission. Looking for my attention, I hit the ground and I fall in town. I'm feeling sticky, but I'm going down, down. That's right. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Ciao proprio. Ad Elisa, ti amo tanto e vorrei stare sempre con te, sempre con te, sempre con te. Il tuo Giacomo da Trento. Ti amo, sono per tutto, è tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo, fuori dal mondo, fuori dal mondo, fuori dal mondo, fuori dal mondo, fuori dal mondo, fuori dal mondo. Se tu vuoi dedicare la canzone a qualcuno, mi devi scrivere la dedica. Clipette delle SMS. Bravo. Il numero di SMS è 333-64-67-662. musica allo stato puro. Puro. Puro. Allo stato puro. Puro. Puro. Arriva, arriva! Gigi D'Agostino! Ciao G, puoi suonare quel brano dove dici che certi assassini non guardano in faccia nemmeno i bambini? Ma che è? Boh. Sono Alberto da Torino. Puoi suonare, puoi suonare, puoi suonare. Ma che sta a fare? Ma che stava a giocare? Vabbè, allora. Ma cosa? Si può fare musica in ogni momento. Un saluto a tutto il Politecnico di Torino. Torino. Torino. Torino. Torino. Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo. Gigi D'Agostino, sulla testa. Da un mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Sul comodino, alla console c'è Gigi D'Agostino. Tino. Tino. Tino. Fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica, musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Musica, musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. D'Agostino spesso si trasforma, non c'è un programma ben preciso, perché questo non è un programma e quindi non si programma, perché questo non è un programma. Il cammino di Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante. Che famo notti? L'appuntamento in discoteca con me, che sono Gigi D'Agostino, quello lì. Quale? Quello lì. Ah, te l'aveva detto. Sabato sera, questo qua. Discoteca Max, Bressanone, Bolzano. Ci sono anch'io, eh? Ah, e cazzino. Domenica 8 ottobre alle 15, Gigi D'Agostino sarà a Vicenza. Discoteca Nord-Est, Caldogno. Spiegazione finita. E viva la vita. Gigi, sono Vituccio. Volevo salutare Chiara. Ma chi è? Una mia amica napoletana a cui voglio tanto ma tanto bene. E dirle che mi manca. È importante di capirsi. Il cammino di Gigi D'Agostino. D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Marta di Varese, Hans dalla Svizzera, Veronica da Surbo, Ilaria da Tarquinia. ciao Broglio. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O, mica pistacchi, stighecchi. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. Suona il cellulare. Pronto? Ciao G. Ehi. Sono Alessandra. Mi faresti ascoltare? No, perché la vorrei dedicare. Dedicare? Ce la vuoi fare? E poi lo sai che non sopporto quelli che iniziano le frasi quelli che iniziano le frasi e appunto. Secondo me è meglio se a cosa? No, niente. Il cammino di Gigi D'Agostino. Capito come? Piacere, prestiamo attenzione perché sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Sì. Dai, G. Il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662 333-64-67-662 333-64-67-662 333-64-67-662 333-64-67-662 Gigi, mi faresti ascoltare quella canzone che fa Magic of Love, Stay One Day? La dedico a Gabri, la mia grande amica. Certo. Grazie, Tiziana. Sono Diana da Agrigento e sulle tue note voglio gridare al mondo: Daniele, ti amo. Capito. Like a river that opens the sea, this is the way that it has to be. E genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi, sono già da tempo. In che senso? Già da tempo. In che tempo? Oggi è il mio compleanno. Ah. È una giornata speciale. Mica stiamo scherzando. Ma lo sarebbe ancora di più con una tua canzone. Tipo? Quella che chiamiamo Beyond in the Sky. E tu la chiami così, ma si intitola... Non mi ricordo cosa dovevo dire. Sì, vabbè. Perché con la tua musica mi sento davvero oltre il cielo. Vola, vola, vola. Bogacci via questo. Da Sara per Nicky. Tutte le volte che rido, tutte le volte che piango, ogni volta che prego, quando dormo o quando sogno, le volte che ti penso, le volte che ti desidero, tu mi manchi. di Gigi D'Agostino. Qua c'è il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. M2O, ogni giorno alle 18, il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. I drive around all day long, listen to radio songs, I'm taking part to become what you want for your life. I stop and talk to you. Tonight, we'll get married with you.

cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarre. Tamarre. È vero, è vero.